color of my love, without, without you, without, without you, the color of my love, without, without you. Lo sì, lo sai, si dice indietro non si torna mai. Lo sì, semmai, soltanto insieme a te lo rifarei. Sorteggiami, il numero ce l'hai. Io passo il tempo ad aspettarti, un'altra notte passerà, calma non sarà. Lucy, se vuoi, io sono qui, il numero lo sai. Se vuoi, io sono qui.